I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. C'è qualcosa di incredibile che lascia esterrefatti nel rapporto presentato ieri dalla Confcommercio dal titolo Meno tasse, meno spesa, binomio della ripresa. Da sempre diciamo infatti che se si vuole arrivare a quella riduzione di tasse, ora quantificata dal governo in 50 miliardi in 5 anni, occorre lavorare sul doppio fronte della lotta all'evasione fiscale da un lato e dall'altro della riduzione della spesa pubblica. In realtà la Confcommercio è andata a guardare in maniera molto concreta quanto costerebbe portare l'intero paese a un livello di efficienza che presenta anch'esso molte lacune e debolezze, qual è quello della regione Lombardia. In sostanza, se tutti gli enti locali in Italia venissero amministrati con i criteri di costi rispetto al servizio realmente offerto dalla regione Lombardia, il paese risparmierebbe 74 miliardi di euro. 74 miliardi di euro risparmiati vorrebbe dire però mantenere la bassissima qualità dei servizi che attualmente c'è in alcune regioni del paese, soprattutto in quelle del nostro sud. Ecco perché la Confcommercio dice: di questi 74 miliardi, 51 miliardi dovrebbero essere reinvestiti per migliorare la qualità e la quantità dei servizi pubblici locali, portandoli in questo caso sì al livello delle pratiche migliori appunto del nord del paese. La cosa impressionante è che resterebbero comunque 23 miliardi risparmiati, metà dell'opera per i 50 miliardi di riduzione fiscale che il governo Renzi vuole attuare, avrebbero già trovato così una copertura. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Correrà in borsa la Ferrari così come corre in Formula 1? E questa è la domanda che si fanno tutti dopo il deposito preliminare del prospetto di quotazione della Ferrari. FCA ha dato il via libera alla più importante operazione finanziaria degli ultimi anni, che porterà a una redistribuzione del controllo del capitale sulla casa di Maranello. Exor diventerà il primo azionista della nuova casa automobilistica Ferrari NV, così sarà il nome della nuova holding che controllerà il cavallino, e di fatto controllerà l'azienda grazie alle Fidelity Loyalty Shares che sono state emanate, cioè anche con una quota di capitale che non dovrebbe superare il 30%, il lingotto sarà in grado la famiglia Agnelli di avere il controllo pieno sulla società. Dunque operazione indolore? Beh, diciamo in questi termini ci sono alcune delle domande ancora che si attendono risposta. Una per esempio è questa: le azioni, il 10% che sarà collocato sul mercato, seguirà un 90% di redistribuzione agli azionisti di FCA delle azioni Ferrari. In sostanza che vuol dire? Che quando sarà determinato il prezzo e il valore della società e delle azioni, ci sarà una distribuzione di azioni fra gli azionisti di FCA. Riflesso? Il riflesso è che la corsa del titolo Fiat, o almeno di FCA, in questi ultimi tempi è stata legata proprio alla prospettiva dell'assegnazione delle azioni Ferrari, quindi è ipotizzabile, nel momento in cui ci sarà la quotazione, un contraccolpo proprio sul titolo della casa automobilistica che produce dalle Jeep alle Fiat 500. Un ultimo rammarico: forse una parte del business della quotazione in borsa sarebbe potuto andare alle aziende italiane che nel momento di massima difficoltà di Fiat, all'epoca del convertendo, fecero un write-off, cioè una svalutazione di oltre 3 miliardi su quello che Fiat doveva alle banche. Eppure tutto il lavoro di quotazione delle Ferrari è andato alle banche svizzere e alle banche americane. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.